Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento della settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, anche oggi un argomento che è di, sicura attualità. Parliamo di un'indagine Istat. Sì, purtroppo parliamo dell'ennesima indagine Istat pubblicata qualche giorno fa, dove purtroppo ci viene certificata quella che è una situazione del paese che riguarda un po' tutti, di cui alla fine emerge all'attenzione un dato, il 28,4% della popolazione che sostanzialmente viene certificata come persone a rischio di povertà o addirittura ad esclusione sociale. Un dato, è importante ricordare, riferito al 2013, e che quindi nel 2014 non potrà che essere certamente peggiore rispetto all'anno prima. Sì, quindi il 28 e passa per cento magari è già diventato un 30 o chissà che. Ma sicuramente, perché poi questo è un dato che anno dopo anno sta crescendo sempre più in maniera costante. E soprattutto risulta come il reddito delle famiglie disponibile risulta per circa il 50% delle famiglie in Italia di poco meno 24.000 euro, e parliamo di circa 2.000 euro lordi, quindi ci rendiamo conto della difficoltà che insomma queste famiglie hanno di arrivare a fine mese, ma soprattutto anche proprio di esclusione sociale. Certo è che la cosa più interessante di questa indagine è quello che è stato evidenziato, come se una famiglia su quattro, quindi in questo caso in questa fascia, dovessero far fronte a una spesa imprevista che potrebbe essere un furto d'auto, un'operazione dentistica o una cartella esattoriale non attesa, e noi come Adico aggiungiamo una multa per esempio, ma parliamo di imprevisti che variano da 1.000 euro ai 10.000, queste famiglie le butteremo completamente a terra, non sarebbe assolutamente in grado di poter far fronte a questo tipo di imprevisto. Quindi entriamo in crisi profonda in questo caso, e ricordiamo anche alcune cartelle esattoriali che hanno portato addirittura a gesti tragici alcune persone. Sicuramente parliamo di Equitalia, di come un sistema che oggi comunque di fronte a quello che è una difficoltà generalizzata sostanzialmente possiamo dire non fa sconto a nessuno, però parliamo di un dato dove alla fine, se lo traduciamo in numeri, questo 28,4% vuol dire 9 milioni e mezzo di persone che sostanzialmente sono in difficoltà, e una difficoltà che ripeto aumenta ogni anno, ma che è determinata soprattutto da un fenomeno che è quello della mancanza di lavoro. Mancanza di lavoro che poi porta a un calo dei consumi ovviamente, ed è un circuito che non ha fine e si mangia la coda da solo. Certo, se poi pensiamo alle famiglie come nucleo, questo dato schizza le stelle nel caso che i componenti delle famiglie aumentano. Si parte da un dato del 39,8% nel caso ci siano due figli, del 43,7% con tre figli, se poi ci sono minori si va oltre, arriviamo fino al 46%, quindi parliamo addirittura di famiglie che, se numerose, il 50% rischiano veramente di rientrare in questa categoria. È una categoria che certamente, oltre ad essere a rischio di povertà o ad esclusione sociale, in questi anni hanno dovuto rivedere anche quelle che sono un po' i loro tenori di vita e le loro abitudini, perché sostanzialmente una delle cose che è emersa, come il 27% delle famiglie oggi non raggiungono più il tenore di vita di una volta, e il 46% per esempio del 2012 ha dovuto anche rivedere tante abitudini, tanti stili di vita che una volta, fino a qualche anno fa, avevano e che oggi, per effetto di questo mutamento di questo scenario economico che stanno interessando il nostro paese, non riescono più a mantenersi agli stessi livelli. Certo, quindi una serie di dati che fanno pensare che comunque presentano già quella che è un po' la figura dell'Italia che da qualche anno stiamo tutti immaginando. Beh, dato di ieri, dato di oggi, come sostanzialmente veniamo certificati e ci annunciano già che il debito, anche per effetto di queste nuove manovre, comunque non è un debito che il nostro paese ha sotto controllo, ma che continua ad aumentare, una situazione in cui la disoccupazione ad oggi, al di là di quelle che sono le grandi discussioni alla Camera e al Senato, ma che continua ad aumentare, giovani sotto i 35 anni che sostanzialmente non hanno speranza di lavoro, ma solamente speranza e aspettative dall'estero, persone inserite nella fascia del 40-50 anni che poi sono quelle ancora messe peggio, perché certamente sono persone che sono risultano essere meno competitive sul mercato rispetto ai giovani. E da ultimo ricordiamo sempre gli esodati, che comunque sono una parentesi della nostra triste storia, che ancora comunque sono dei disoccupati da qualche anno e stanno aspettando di poter arrivare alla pensione. E vabbè, un quadro che abbiamo disegnato che ha dei toni decisamente cupi. Io intanto prendo atto di questo, ti ringrazio Carlo per la segnalazione, speriamo in un futuro migliore, insomma non ci resta altro che sperare. Noi dobbiamo sperare in un futuro migliore, speriamo che questi governi possano trovare anche delle soluzioni. Ad oggi però essere ottimisti ci vuole molto coraggio. Certamente il nostro augurio è quello comunque doverlo fare e augurarci veramente di arrivare almeno al giro di boa. Grazie a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.